girato tutto il mondo, ma non saprei dire con chi sono stato, se chiamarmi vagabondo oppure burattino telecomandato. Quante volte mi son chiesto, ma perché lo fai? Non lo vedi che di amici veri non ne hai? E tra mille delusioni ho cercato sempre di sentirmi su. Ma quando canto sono sincero più che mai, sono contento soltanto in mezzo a tutti voi. E poi non vendo fantasia, ma momenti della vita mia. E vorrei sentirmi libero di dare un bacio, regalare un fiore. Mi farei le foto proprio come quando andavo in città con le suore. Quando canto